abbronzatissima. Come sapete è una nazione baciata dalla natura, la esatto. Grecia. Deborah, tu lo sai perché c'hai ancora l'abbronzatura. Com'è bello sognare. Abbronzatura greca. Ma questo l'ho preso due mesi fa. Abbronzatissima. Perché un po' invidiosa greca, dai. Noi siamo bianchi, grigetti, milanesi. Tu sei abbronzata. Respirare con me. Il ministro scamiciato ci lascia un po' in mutande. Dolcissime. Un profumo. Anna. Buongiorno care amiche di che siete carissime. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Effettivamente si aspetta venerdì in Grecia, non tanto per accogliere l'arrivo di un nuovo weekend come possiamo fare noi, ma per liberarsi del limite al prelievo giornaliero dai bancomat, che sarà mantenuto almeno appunto fino a venerdì. Quindi non sappiamo se poi davvero in quella giornata o a partire da sabato tornerà la normalità agli sportelli bancari di Atene e delle altre zone della Grecia. Dipenderà anche dall'evoluzione ancora delle trattative estenuanti fra il governo di Tsipras e Bruxelles. Di normale c'è ben poco in questi giorni in Europa. Ci troviamo di fronte ad una situazione del tutto nuova dopo l'esito del referendum di domenica, che ha visto in Grecia trionfare il partito del no agli accordi proposti dai creditori internazionali. Allora, perché oggi torniamo a parlarne nella prima parte di Cuore e Denari? Perché intanto chiaramente vi ridaremo gli aggiornamenti dai mercati finanziari, che oggi sono un pochino più tranquilli ma non recuperano le perdite di ieri. Un focus particolare torniamo a farlo sul turismo. Lo ricorderete, lo abbiamo già fatto anche settimana scorsa in una puntata speciale da Expo, ma la situazione è cambiata negli ultimi giorni e ci stanno arrivando tanti messaggi e tante mail dagli ascoltatori che sono in partenza per la Grecia per le vacanze estive e sono ancora preoccupati. D'altronde, anche a giudicare da quello che leggiamo sui giornali, hanno anche ragione ad esserlo. Oggi addirittura da Repubblica, lo anticipo già, c'è un reportage di un collega, Alberto D'Argenio, che scrive che addirittura medicinali e cibo stanno scarseggiando nei negozi e nelle farmacie. Mi sembra un quadro davvero drammatico, che forse non so se ha del vero fino in fondo, ma insomma lo chiederemo anche a chi è là. 800 24 00 24, cominciate a prenotare su questo argomento i vostri interventi. E nella seconda parte della trasmissione cambieremo argomento e parleremo di tutte quelle dolori e dolorini che avvertiamo in questo periodo dell'anno. Sarà l'aria condizionata, saranno gli anni, le posture sbagliate, magari in macchina o alla scrivania, o invece abbiamo esagerato in palestra, ci siamo spinti un po' troppo in là con gli allenamenti, oppure sono proprio le emozioni che pesano anche a livello fisico, non solo mentale. Cercheremo insieme ai nostri esperti quindi di scoprire l'origine del nostro dolore, del nostro malessere, della nostra contrattura. 800 24 00 24, ma naturalmente, scoperta la causa, chiederemo ai nostri esperti di aiutarci a prevenire questi malesseri e soprattutto, nel caso ve li sentiate già addosso, a trovare una soluzione. Ce lo sogneremo pure di notte questo Sirtaki, prima o poi Sempre con gli occhi puntati sulle notizie che arrivano dalla Grecia, noi vogliamo continuare a sognare però quel bellissimo mare, le bellissime isole che questa terra ci offre, ma alla luce delle notizie politiche, dell'incertezza economica, qualche preoccupazione può venire anche a chi in Grecia si appresta semplicemente ad andare a fare il turista. Semplicemente, hai detto poco, dopo un inverno lungo di lavoro e insomma chi non sogna di andare a trascorrere qualche giorno in santa pace in quelle bellissime spiagge. Allora, la domanda che però chi sta partendo si fa è questa. Intanto, mancheranno banconote agli sportelli? Dobbiamo partire carichi di contanti? Ma non solo, magari ci sono anche altre domande, Nicoletta, che qualcuno certo, si fa. Magari se è possibile, magari possiamo subire dei disservizi a causa dell'imprevedibilità economica e come si può ripercuotere naturalmente sul turismo questa situazione. E se decidiamo di rinunciare alla vacanza, possiamo essere rimborsati? 800 24 00 24, contattateci se uno di questi oppure un altro dubbio vi sta frullando per la testa in questi giorni. Ne parleremo con molti ospiti stamattina, cominciando con Pierre Zaia, vicepresidente di Astoi Confindustria Viaggi, che saluto, buongiorno vicepresidente. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i suoi ospiti. E naturalmente le associazioni dei consumatori hanno le antenne ben dritte su questo argomento. Maurizio Amerelli, esperto diritti del turismo per altro consumo, buongiorno anche a lei. Benvenuto. Buongiorno a voi. Peraltro c'è un comunicato stampa di Codacons proprio di poco fa. Sono anche rimasta abbastanza colpita dal tono tranquillizzante di questa associazione dei consumatori, che di solito invece è bella vivace nella modalità di comunicare le cose, e parla proprio di una grande confusione sul fronte delle vacanze estive in Grecia. È necessario fare chiarezza, dice, evitare inutili allarmismi. La situazione attuale del paese non è tale da mettere a repentaglio viaggi e vacanze. Raffica di richieste d'aiuto ai nostri centralini. Presidente, no, Pierre Zaia, vicepresidente di Astoi Confindustria Viaggi, ci dica un po' come stanno andando le cose. Astoi che tipo di monitoraggio sta facendo della situazione? Dalla Grecia in realtà arrivano notizie di una media di cancellazioni per circa 50.000 al giorno. Chiaramente non parliamo solo di italiani, avranno un monitoraggio generico dal Ministero del Turismo appunto greco. Dall'Italia che cosa sta succedendo? Beh, intanto mi piace dire una cosa importante, che prima della proclamazione del referendum l'andamento sulle prenotazioni della Grecia faceva registrare crescite a doppia cifra, sì, intorno al 20-22%, complice anche la situazione di alcuni paesi del Nord Africa, i cui flussi ovviamente hanno subito dei rallentamenti o, come nel caso della Tunisia, ahimè, dei veri e propri arresti di flusso di turisti. Purtroppo dobbiamo anche ratificare che da quando è scoppiata la questione del referendum, quindi negli ultimi 7-10 giorni, le cancellazioni hanno cominciato ad arrivare, sebbene non così in maniera così massiccia come io stesso ho letto in alcuni articoli pubblicati sui giornali. C'è qualche preoccupazione sulle partenze imminenti, questo sì, ma almeno da quanto risulta a noi come associazione del tour operator, le cancellazioni la settimana scorsa sono state abbastanza moderate e, ripeto, non riguardano soprattutto le partenze centrali, ossia quelle di agosto, dove chi ha prenotato attende di vedere anche gli sviluppi dei prossimi giorni. Ovviamente noi vigiliamo sulla situazione, che è fluida, e possiamo anche dire che i clienti che si trovano in questo momento nelle isole, quindi non nelle località, diciamo, nelle località turistiche, non in quelle dove stanno un po' accadendo i disordini o comunque le manifestazioni come Atene o le altre città della costa, stanno vivendo una vacanza, diciamo, completamente tranquilla. Anzi, un po' come è accaduto in altre crisi internazionali, i turisti chiamavano allarmati per le informazioni che ricevevano dai loro parenti dall'Italia. Come l'Egitto negli ultimi anni, infatti. Esatto, più che per le effettive criticità che diciamo stavano vivendo sul luogo. Noi ovviamente stiamo monitorando la situazione, confidiamo che una soluzione si trovi, e se mi permette anche di aggiungere una cosa, se una soluzione non si troverà a questo problema della Grecia, il problema sarà molto più profondo che un banale prelievo dal bancomat o della vacanza. Ecco, sarà condividiamo pienamente. Condividiamo a Focus, sì, Economia di Barisoni, un vostro ospite che sentenziava che la mancanza di un accordo corrisponderebbe ad una seconda Sarajevo. Ecco, forse senza arrivare a quella drammaticità, però indubbiamente noi siamo confidenti che, insomma, poi un accordo tra l'Unione l'Unione Europea e il governo greco possa riportare tutto alla normalità. Comunque ripeto, in questo momento i clienti che sono nelle isole, quindi nelle località turistiche, stanno vivendo una vacanza. Te la stanno godendo. Esatto. In assoluta normalità. Non hanno neanche il minimo, esatto, non hanno il benché minimo pensiero di dover andare a fare un prelievo al bancomat, stanno lì belli spavaranzati al sole. Esatto. In questo momento no. Tra direi che però il vicepresidente ha vinto il premio fedeltà, hai visto come si muove, come conosce tutte le trasmissioni. Bene, e gli manderemo un libro. Vuole un libro di cuore o di denari? Sa che noi lo regaliamo. Ottimo. Tutte e due, vedi che si allarga. Volentieri. Lei ci mandi qualche bella brochure per qualche bella località da raggiungere nei prossimi anni, perché quest'anno io e Nicoletta abbiamo piani già pianificati. Amerelli, andiamo alle associazioni dei consumatori. Quali sono, dal vostro punto di vista, le principali preoccupazioni dei turisti? Noi le abbiamo già elencate, le conosciamo. Chiaramente la questione più importante è proprio quella legata alla disponibilità di contante dai punti bancomat. Il governo greco, ricordiamolo, ha garantito che lo stop a 60 euro al giorno non riguarda i turisti, ma chiaramente se uno ha un paio di filiali a disposizione, magari proprio quelle scarseggiano di contante perché i cittadini greci li hanno già prelevati tutti, è chiaro che anche un turista che non ha il tetto, se non li trova, non li trova, no? Amerelli, quali altre raccomandazioni state facendo magari agli associati di altro consumo che si rivolgono a voi in questo frangente? Certamente, nel momento in cui la situazione è molto fluida, regna una grande confusione, ovviamente i consumatori, quelli che sono in procinto di partire, quelli che hanno già prenotato un viaggio in Grecia, si pongono delle domande e quindi conseguentemente le pongono a noi, giustamente. Come si diceva prima, in questo momento la situazione non è chiara a nessuno. Nessuno ha sfera di cristallo su quello che potrà prevedere a medio e lungo termine. Naturalmente in questo momento non è assolutamente il caso di fare degli allarmismi. La situazione al momento è assolutamente tranquilla. Il discorso relativo ai prelievi bancomat, come è stato detto, il limite dei famosi 60 euro al giorno riguarda soltanto i cittadini greci e non i turisti. Va da sé che, come si diceva, è ovvio che se la banca a un certo punto proprio materialmente non ha gli euro, non ha la liquidità, io posso anche cercare di prelevare col banco, ma se proprio non c'è il denaro, infatti, non c'è l'euro. Ecco perché il consiglio prudenziale che diamo in questo momento è quello di portarsi più contante di quello che si sarebbe portati in un altro momento. Sia per questo motivo, sia per il fatto che è possibile che negozianti e ristoratori abbiano qualche difficoltà ad accettare gli strumenti di pagamento elettronico, quindi pagamenti con carta di credito, pagamenti con banco. Perché sono poi soldi che finiscono nella loro banca, che poi a loro volta non possono prelevare né utilizzare per le normali operazioni commerciali. Il contante continuo a leggere questi articoli di Repubblica, perché questa mattina così di primo impatto mi sembrano quelli con toni un po' più allarmanti. Non è di questo dello stesso avviso, non utilizza gli stessi toni per esempio Vittorio D'Arolde del Sole 24 Ore, però su Repubblica ribadisco questo pezzo che mi ha colpito molto: medicinali, strumenti per gli ospedali, latte in polvere, pannolini, alimenti di base, l'Europa prepara un piano di aiuti umanitari per la Grecia. I funzionari europei che a Bruxelles ci stanno lavorando sono sotto shock, anch'io che leggo questo pezzo, ma l'Unione aveva dovuto aiutare un proprio Stato membro a reperire beni di prima necessità. Certo che, ritorno al vicepresidente di Confindustria, di Astoi, Confindustria Viaggi, Pier Esaia, se uno dovesse leggere, per chi legge in queste ore questo articolo, mi chiedo che voglia abbia di partire, se ha addirittura la preoccupazione che se dovesse aver bisogno di un'aspirina perché se l'è dimenticata in Italia non riesce a trovare, cioè parlare di piano di aiuti umanitari metterebbe, voglio dire, in difficoltà, in discussione qualunque viaggio. Lei che dice? Purtroppo sì, io stesso se leggessi un articolo di questo taglio avrei delle preoccupazioni. Io quello che posso dire, ovviamente non posso sindacare ciò che ha affermato il giornalista di Repubblica, quello che posso dire è che quello che risulta a noi dai centri vacanza, e siamo presenti in moltissime isole dove poi gli italiani trascorrono le vacanze, noi non abbiamo questo tipo veramente di percepito e di situazione. C'è una netta differenza tra le isole e Atene e la costa, e ci sono dei problemi che ovviamente, piace dirlo perché stiamo parlando sempre di persone, però riguardano meno i turisti e più la popolazione della Grecia. Noi continuiamo a registrare una situazione di estrema normalità nelle isole, nei villaggi turistici, dove i clienti fanno le escursioni, dove stanno facendo le vacanze. È chiaro che dobbiamo monitorare la situazione perché è molto fluida, ma nell'arco anche di qualche ora. In Italia bisogna anche dire che siamo un paese molto emotivo, no? Si reagisce con molto calore alle cose. Se così non fosse, non avremmo tutte le meraviglie se non fossimo un paese emotivo che abbiamo in questo paese. Da noi, ad esempio, faccio un esempio che adesso esula un po' dalla Grecia. Quando c'è stato il fenomeno Ebola, che interessava 2, 3, 4 stati dell'Africa occidentale, abbiamo avuto cancellazioni su tutto il continente africano. Cancellavano Cape Town, che si trova più lontano dalla zona dell'Ebola di dove si trova oggi l'Italia, no? Quindi c'è anche un fenomeno di grande emotività. Dopo la Tunisia abbiamo ricevuto cancellazioni su molte altre destinazioni perché immaginavano situazioni analoghe. Quindi c'è un po' una tendenza a reagire con una certa emotività. Noi invitiamo alla tranquillità e alla razionalità. È giusto monitorare la situazione, è giusto vedere gli sviluppi, però ecco, dobbiamo anche cercare di capire che non è che possiamo reagire sempre con estrema emotività e con estrema pancia, ma con un pochino di tranquillità ed evitando un po' l'ansia. Poi capiamo benissimo che uno fa una vacanza, vuole stare tranquillo, stare tranquillo. Anche perché capiamo, come molti ascoltatori ci fanno notare anche via SMS, portare dei contanti in più. Ci arriviamo, perché dobbiamo naturalmente magari pagare anche il negoziante ristoratore che non accettano gli strumenti di pagamento, ma naturalmente girare con un malloppetto ci espone a dei rischi. Ti dirò che abbiamo l'esperto più tardi che ci dà anche qualche raccomandazione su questo, chiaramente partendo dal metterli nel reggiseno, nelle mutande, la prima cosa che potrebbero dirci le nostre mamme. Detto questo, adesso ritorno anche un attimo ad Amerelli, perché prima ho interrotto brutalmente, ma visto che, come abbiamo detto oggi, vorremmo anche avere qualche testimonianza di italiani che si trovano sul posto o che stanno per recarsi in Grecia, cara la mia Nicoletta, abbiamo disturbato un amico di cuore e denari che là proprio di tutto questo neanche sente lontanamente parlare, anzi ne sente parlare perché lui da lì comunque si collega con il suo tablet, con i giornali italiani, sente Radio 24 e quant'altro, ma di tutta questa emergenza è anche un pochino disturbato perché dice che la stampa italiana e non solo, spero anche quella internazionale, che non siamo solo noi ad esagerare i toni, stanno appunto un po' esasperando quell'emergenza. Francesco Ardito è il fondatore di Last Minute Sotto Casa, ma oggi non parleremo di questa sua attività, parleremo di lui in quanto turista italiano a Naxos. Francesco, buongiorno, ciao. Buongiorno, ciao Deborah, ciao Nicoletta, un saluto a tutti gli ascoltatori da una splendida e assolata Grecia. Ecco, frequenta la Grecia Francesco da oltre 20 anni, per cui può dirci assolutamente con cognizione di causa quali sono le sue impressioni su queste giornate post referendum. Ti faccio subito questa domanda un po' personale: tu paghi senza problemi con la carta di credito in questi giorni, oppure i ristoratori quando vai a cena la sera fuori sono un po' disturbati da questo, storcono un po' il naso, vogliono il contante? Qual è la situazione, Francesco? Ma dal punto di vista del pagamento devo dirti che, allora, in generale innanzitutto ti rispondo subito, ma anch'io sono abbastanza, come hai detto tu, scioccato a sentire queste notizie veramente così allarmistiche, perché al di là della situazione sulle isole posso anche dirvi che io sono stato un po' di tempo ad Atene, ho amici che sento quotidianamente ad Atene, e lì la situazione, perché i farmaci ci sono, non capisco, ho un'amica che lavora proprio in una farmacia e mi diceva che i farmaci ci sono assolutamente. Qui io sono in questo momento a Naxos, se ho amici che sono arrivati da qualche giorno, da Follegandros, da Santorini. Allora, pagare si paga senza problemi, chiaramente se fai il noleggio del motorino, se fai il noleggio dell'automobile, se ti paghi il corso di windsurf, diciamo, tutte queste cose qua accettano la carta. È chiaro, la domanda che ti fanno tutti è: ma se puoi pagarmi in contanti preferisco. Però quasi tutti poi si fa una risata, gli si dice anche noi abbiamo bisogno di tenere il contante. È chiaro che se vai a mangiare nella taverna dove spendi 10-12 euro, ma certo, neanche le tiri fuori, quella è una cosa diversa, lì devi pensare di pagare in contanti, perché non si, però ti posso garantire che ho situazioni reali di amici che hanno, chi noleggiato il motorino, chi la macchina, chi ha fatto un corso windsurf, hanno pagato tutti tranquillamente con la carta di credito. Al momento, che cosa prevedi per i prossimi giorni, Francesco? Adesso è chiaro che tu non fai come lavoro l'economista, né il veggente soprattutto, ma per coloro che stanno partendo per la Grecia e magari per rassicurare coloro che hanno programmato il loro primo viaggio assoluto in Grecia, perché magari tu hai questa confidenza con questa zona e quindi questo immagino che sia anche una rasserenazione, un rasserenamento, come si dice adesso? Sì, è una circostanza che ti rende molto più sereno. Brava, ovviamente facciamo il giro lungo per chi non è mai venuto e naturalmente sta partendo proprio quest'anno con questa crisi politica ed economica così importante. Che cosa gli possiamo dire? Allora, consigli, io ripeto, hai premesso, io non mi permetto di dare consigli visto che non è il mio mestiere, non sono un economista e neanche uno stratega di queste situazioni, però quel che posso dire è che, ripeto, io parlo con i greci, cioè io conosco il greco e parlo con i greci, mi informo, la situazione è veramente tranquilla, al di là dei turisti che veramente se la godono e se la spassano. Io, per dirvi, l'altro giorno ho prelevato al bancomat qua senza problemi, sono andato, non c'era una persona in coda, ho preso i soldi e li ho portati via, tutto è esattamente come era l'anno scorso, come era gli altri anni. Qui ho parlato poco fa con un greco a cui ho chiesto ma le farmacie qua, lui mi ha detto ma se abbiamo i farmaci qua figurati se non hanno anche ad Atene. Io quel che posso consigliare è, come dicono tutti, portarsi giustamente un po' più di contanti, perché chi lo sa che cosa potrà succedere. Giustamente, come diceva la persona di Confindustria, viaggi, turismo, se un giorno proprio finissero i soldi, chiaro, nelle distributori automatici è un discorso. Però quel che posso dire, al di là di portare chiaramente un po' più di contante di quello che uno avrebbe portato, veniteci veramente tranquilli, perché ribadisco, anzi Santorini, un amico arrivato da Santorini mi diceva che c'era un caos di gente, tutti con i bastoncini in mano per farsi i selfie, che a Ia e a Tiro, le due principali città, non potevi neanche camminare perché ti scontravi bastoncino con bastoncino, cioè questa è l'atmosfera, cioè qua c'è una tranquillità. E anche i greci, tutti quelli con cui parlo, mi dicono siamo tutti abbastanza ragionevolmente convinti che un accordo in qualche modo verrà trovato. Certo. E loro stessi se la vivono tranquillo. Premesso che ad Atene, a Salonicco, Patrasso, le grosse città, i problemi ci sono, ma ci sono ben prima del referendum. I greci ce li hanno i problemi e non è qua il caso di andarli a raccontare. Grazie Francesco. Però goditi Naxos e la tua vacanza. Fatti un bagno per noi. E se dovesse concretizzarsi invece uno scenario di nuovo un pochino preoccupante, magari torneremo a chiederti un contributo per raccontarci se invece anche lì la storia sta cambiando rispetto alle rassicurazioni che abbiamo potuto dare questa mattina. Andiamo a fare i mercati, che sono tanto in ritardo, ma tanto. È un'ottima idea. A tra poco. Cuore e denari. Evviva, ho vinto. Insomma, ne valeva la pena. Eh? Dici che valeva la pena di ridurci così? Noi stiamo andando al fast food, volete qualcosa? Del ghiaccio! Non ve l'auguriamo, certo, ma può capitare che durante l'allenamento, la partita di calcetto con gli amici, qualcosa vada storto, ad esempio un piede che ci si faccia male, sono dolori. Ma oggi vi racconteremo invece di una situazione opposta, cioè di quando lo sport cura, diventa terapia. Siete un po' acciaccati quando vi alzate, la schiena vi tormenta, dopo pochi passi il vostro ginocchio cede o si lamenta, restate e iniziate a chiamare. Due esperti sono pronti per darvi una mano, è proprio il caso di dirlo, a ritornare in gamba. 800 24 0024, iniziate a lamentarvi. Continuiamo a parlare di Grecia, a dedicarci agli italiani che sono pronti a partire, che naturalmente si sono un po' allarmati in questi giorni per l'evoluzione molto dirompente della situazione, soprattutto dopo il referendum di domenica scorsa. Allora, volevo fare una precisazione, ovviamente non ho nessun motivo per mettere in dubbio il contenuto dell'articolo del collega di Repubblica, perché vedo che lo stanno commentando molti ascoltatori. Se il collega ha scritto che in Unione Europea si sta addirittura discutendo di un possibile piano di aiuti umanitari per la Grecia, perché evidentemente è un'opzione sul tavolo, le sue fonti saranno assolutamente certe. Quello che io mi stavo chiedendo è solamente, mettendomi dal punto di vista del turista, che chiaramente uno leggendo una cosa del genere è ovvio, ha tutto il diritto di ripensare alla sua partenza. Questo è secondo me, forse mi ero espressa male all'inizio, quindi non ho nessun tipo di commento da fare sul contenuto dell'articolo. È evidente che questa opzione qualcuno l'ha presa in considerazione, perché altrimenti le collega Alberto D'Argeni appunto non la scriverebbe. Detto questo, Ritornerei per un attimo ai nostri ospiti. Dobbiamo salutare Pierre Zaia, vicepresidente a Stoi Confindustria Viaggi. Solo un'ultima battuta gli chiedo. Intanto, Zaia, Grecia a parte, magari ci faccia una piccola fotografia di quali altre mete gli italiani stanno scegliendo quest'anno per le loro vacanze. C'è chi mi sta chiedendo anche della Turchia, se la dobbiamo considerare meta a rischio o meno. Veramente ci muoviamo in un campo minato, purtroppo, perché negli ultimi anni... Termini stamattina, perché già siamo un po' tutti... Però purtroppo negli ultimi mesi e negli ultimi anni abbiamo visto diverse destinazioni sparire un po' dalla gamma delle possibilità, no? E non ultima la Tunisia con quello che è gravemente successo. Ma gli italiani stanno andando prettamente in tre direttrici, che sono la Grecia, come ho detto prima, al di là degli ultimi 10 giorni, un trend di crescita del 20%, la Spagna, in particolare sulle Baleari, dove registriamo crescite anche qui sopra il 20%, e ovviamente anche nel nostro paese, quindi l'Italia sta riscontrando delle crescite molto buone. Sta soffrendo, ovviamente, come è logico immaginare, un po' tutto il Nord Africa, la Tunisia che si è praticamente bloccata e l'Egitto che sta comunque tenendo, ma risente un po' della crisi di tutta la parte nordafricana. La Turchia, anche qui, è un po' complicato dare una spiegazione, nel senso che dipende molto dove si va. Noi non prendere mai posizioni sulla sicurezza, perché lasciamo che sia la Farnesina a farlo. Siamo sempre in contatto con l'unità di crisi della Farnesina, che ci aggiorna su eventuali stati di sicurezza o di pericolo, e noi ci allineiamo ovviamente a quei tipi di messaggi. Non ci sentiamo di dire sicuro o non sicuro, perché non tocca a noi dirlo. Quello che possiamo dire è che anche lì in Turchia, nelle località turistiche, quindi Bodrum e Antalya, che dove prettamente gli italiani vanno, la situazione anche lì è di assoluta normalità. Però mi ha fatto molto piacere il commento del vostro inviato Francesco Ardito, che è il vostro amico, ascoltatore, che comunque ha dato una situazione di tranquillità da una persona che, ecco, non sono io a dirlo e quindi sarebbe un conflitto di interesse, ma una persona che è lì e sta vivendo la Grecia in prima persona e ha dato una testimonianza molto vera di quello che sta succedendo. Guardi, dopo. Le dico anche che contestualmente molti ascoltatori invece ci stanno accusando di minimizzare la situazione. Un ascoltatore scrive: ma non l'avete sentito gli appelli dei primari greci, che non sono rassicuranti? Beh, in ogni caso, noi siamo davanti a questo microfono a Milano, purtroppo non possiamo toccare con mano in questo momento quella situazione, ci affidiamo a chi è sul posto e racconta cose diverse. Grazie Zaia, a presto. Grazie a lei, grazie a tutti e buona giornata. Buona giornata. Chiedo ancora un minutino di pazienza a Maurizio Emerelli, poi gli faremo dare le ultime raccomandazioni di altro consumo per affrontare con serenità un viaggio in qualunque parte del mondo. Peraltro c'è anche questo suggerimento che danno molte associazioni dei consumatori, a prescindere dalla località che si sceglie, soprattutto se se ne sceglie una un pochino a rischio, sarebbe meglio prima di partire registrare i dati relativi al proprio viaggio sul sito dove siamo nel mondo, in modo tale che poi la Farnesina, eventualmente se siamo in una località un po' a rischio, ci può localizzare immediatamente. Allora, come abbiamo detto prima, stiamo raccogliendo anche le testimonianze di viaggiatori che hanno un po' di esperienza da condividere con noi, e per questo abbiamo coinvolto anche il prossimo ospite, a cui diamo subito il nostro saluto. Emanuele Giusto, ciao Emanuele. Buongiorno a tutti. Senti che tono un po' spagnoleggiante che ha, anche se lui è qua italianissimo, eh? Giornalista, documentarista, fotografo. Sì, fa tutto, fa un sacco di cose belle. Qualche anno fa io l'ho conosciuto quando ha scritto e mi ha mandato il suo libro Il Giro d'Europa con 30 euro low cost, istruzioni per l'uso. È un viaggiatore di grandissima esperienza e quindi anche da lui vorremmo avere qualche suggerimento pratico. Turisti diretti in Grecia, Emanuele, c'è questa raccomandazione, questo suggerimento di portarsi dietro un po' più contante del solito. Tu che cosa faresti se dovessi partire domattina? Grazie Deborah. Innanzitutto io credo che con una buona preparazione non è vero che questa situazione possa rovinare il viaggio. E perdersi un viaggio storico come questo, per un viaggiatore, secondo me sarebbe un delitto. La Grecia è un paese meraviglioso, tra l'altro vive una crisi da 5 anni, quindi sono anche abbastanza preparati, lo dico perché ho fatto un documentario sulla Grecia. E andare lì per scoprire non solo il mare, non solo andare a comprare delle cose, ma andare lì a parlare con le persone, a capire come va, è una fortuna, è un viaggio nel viaggio, una cosa da non perdere assolutamente. Secondo me. Tutti l'approccio del giornalista, però non ce l'abbiamo, Emanuele. Guarda, purtroppo devo chiudere tra poco questa parte. Dacci subito le tue raccomandazioni per questa questione del viaggiare con un po' di contante addosso. State attenti agli scioperi, perché ci possono essere molti problemi pratici. L'altra preoccupazione potrebbe essere sì quella di non trovare i rifornimenti nei negozi, però questa è una probabilità che ancora non è confermata, e soprattutto calcolare il budget quotidiano, calcolare tutto bene prima per non avere bisogno lì, quindi anche calcolare i soldi a portarsi dietro. Ecco, no, non il pacchetto di cracker magari per smangiucchiarsi. Ma volendo anche, perché se preparo un bagaglio fatto per bene dove non ho bisogno di andare a comprare i pannolini, magari il problema dei pannolini non lo troverò lì. Cioè vado in un paese dove c'è una situazione particolare, mi adatto un attimo alla situazione particolare, però senza pensare di andare in un posto certo. di guerra. Manuele, un'ultima testimonianza da parte tua. Ti è mai capitato di trovarti in un paese, nelle tue esperienze di viaggio, con il denaro razionato ai cittadini? Sono stato in paesi dove il totem del bancomat è per pochi, per stranieri o per ricchi dei paesi dove sono stato, dove ho vissuto, come l'Angola, Capo Verde, Malawi, però in un paese così bisogna stare molto attenti e soprattutto portarsi dietro sempre i soldi addosso. Quindi bisogna avere delle accortezze pratiche per distribuire questi soldi un po' dappertutto, segnare dove sono stati nascosti questi soldi. È assolutamente un consiglio che volevo dare, visto che vi interessava la parte pratica, e non utilizzate il marsupio, per carità, è un sì, errore dove, grossolano. Quindi cambiare in tanti posti, anche negli zaini, e soprattutto ricordarsi dove si sono messi questi soldi. Infatti, ottimo. Se no poi bisogna fare una caccia al tesoro per ritrovarli. Eccoci qua. Allora, noi... soprattutto, se mi lasciate dire, è avere sempre i soldi a mano, perché poi andarli a cercare in certe situazioni non è la cosa migliore. E c'è magari qualcuno che ci guarda da lontano e li trova subito, ecco, magari ci mette a posto le mani. Emanuele, grazie molte per essere stato con noi, magari anche con Maurizio Amerelli li richiameremo nei prossimi giorni. Con se piacere. La situazione dovesse evolversi ulteriormente. Quindi il piccolo focus di nuovo sulla Grecia l'abbiamo fatto. Adesso io non mi sento tanto dolorante stamattina, anche se ieri sera un po' l'aria condizionata, devo dirti. L'hai presa, e basta un colpetto. Ma qua ieri sera era insopportabile. Allora, noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, poi ritorniamo subito dopo insieme. Intanto lamentatevi all'800 24 0024, tra poco. Cuore e denari. All'inizio va lento, sì. Poi aumentiamo gradualmente la velocità e l'inclinazione. Se dovessi avvertire dei dolori al petto o affanno e fatica eccessiva, facci un segnale, va bene? Vabbè, d'accordo, cominciamo. Come ti senti? Bene! Non mi sembra, Cliff. Sì. Te la senti di continuare? Sì, ma... da quanto tempo sto correndo? 11 minuti. Qualcun altro ha resistito così a lungo? Allora, se volete lamentarvi, 800 24 00 24, utilizzate il nostro numero verde, ma intanto ditemi dove vi trovate e qual è il vostro stato d'animo, come vi siete svegliati e che giornata vi aspetta, se la situazione greca vi preoccupa a livello economico e o politico, se invece la vostra preoccupazione è limitata alle vacanze che state organizzando in Grecia, tema di cui abbiamo parlato nella pagina di Denari. Allora, cercate però di capire se e come il vostro stato d'animo vi condiziona, anche a livello fisico, se siete contratti, tesi, oppure invece belli rilassati, morbidi, flessibili. Lasciate insomma che il vostro corpo parli e cercate però di ascoltarlo, perché lui i messaggi ce li manda, però noi spesso facciamo orecchie da mercanti. Sentite il collo, le spalle, il bacino, le gambe, i piedi. E se siete seduti, controllate anche i punti d'appoggio. Ecco, provo anch'io, perché sto sempre storta sulla sedia, Deborah lo sa. Sì. E poi chiamate 800 24 00 24, avvertite tensioni, dolore, siete impacciati, un po' arrugginiti. Ne parliamo oggi con il professor Ernesto Di Pietro, osteopata, professore di biomeccanica della colonna vertebrale all'Università di Lugano, che siamo riusciti di nuovo a catturare, non è semplice. Buongiorno professore, bentornato. Grazie a voi di avermi invitato. Ed è tornato a trovarci il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo. Buongiorno, invece sono facile da trovare. No, è facile anche perché abbiamo con lei fatto la nostra puntatona di Cuore Denari Expo. Ha seguito il nostro coach. È vero. Ha seguito la coppia senza figli, che devo dire. Coppia di conviventi, lui è in ottima forma. Lei è anche dimagrito. Lei è rimasta magra come era, però mangiando molto di più. Però ha detto che si sentiva molto bene, meglio. Laura, l'abbiamo sentita venerdì scorso. E si sono anche sposati? O stanno per sposarsi? Vedi? Cupido. Cupido. Allora, professor Di Pietro. Sì, cara. A proposito di Cupido, di amore, andiamo voglio sulle emozioni. Ok. Le emozioni pesano sul cuore, ma si fanno, lo sappiamo bene, sentire anche sul nostro corpo, perché siamo non solo quello che mangiamo, ma anche quello che proviamo e pensiamo, perché esiste una netta relazione tra stati emozionali e tensioni muscolari. Tutti possiamo toccarlo con mano, non è un modo di dire. Se quando siamo arrabbiati, ansiosi, preoccupati, provassimo a sentire i nostri muscoli, lei me l'ha insegnato, certo, proprio lei, li sentiremo tesi e contratti. E quindi questo, certo, se il problema persiste nel tempo, anche la nostra postura cambierà, e così anche il nostro modo di respirare, il nostro modo di è sempre un circolo vizioso, sì, non sì, virtuoso. Assolutamente sì, basta pensare a che cos'è poi la postura. La postura è quello che il nostro corpo può fare per renderci al meglio con gli insulti che noi gli diamo. Per esempio, quando siamo seduti su una sedia, prendiamo una postura corretta. Non si tratta di corretto o non corretto, siamo sicuri che la sedia ci permette di stare bene, quindi il vero problema è la sedia, se è corretta o no. Mentre invece la postura è la capacità che ha il nostro corpo di prendere sempre la migliore posizione che riesce. Mi viene in mente quando pensate, per esempio, visto che si parla di sport, abbiamo un esperto eccellente di medicina sportiva, quando arriva una persona e prova un nuovo sport, non so, sale per la prima volta a cavallo, sale per la prima volta in bicicletta da corsa, avete presente come goffo? Mm-hmm. Questo goffaggine che cos'è? È il corpo che sta imparando, diamogli tempo di imparare. Se poi impara male, allora avremo dei seri problemi successivamente. La stessa cosa con le emozioni. Le emozioni influenzano la nostra postura. Quando noi vediamo una persona, basta guardare la postura del viso, per esempio, ci accorgiamo subito se è triste o non è triste. Certo. Se è un sorriso finto, se è un sorriso vero, se è un sorriso di circostanza. Basta guardare già l'espressione degli occhi, ma basta proprio guardare la postura. La stessa cosa che noi vediamo sul viso così bene avviene in resto del tutto il corpo. Tutto il corpo partecipa alle nostre emozioni. C'è uno studio su questo che stiamo facendo, dove sto cercando di fotografare, permettetemi il termine, la colonna vertebrale attraverso degli strumenti che ci sono, ed è nato, pensa, con una paziente, vi racconto questa cosa brevissima, che ho visto lo scorso anno, una ragazza giovane, 30 anni, che aveva una postura tutta avvitata su sé. Era una persona un pochino, tendeva quasi ad avere, si chiamano ipercifosi, un pochino gobba, ecco, per intendersi. E quindi stavo pensando a come fare per poterla aiutare, non conoscevo niente ovviamente di lei. La ragazza poi è sparita, l'ho rivista un anno dopo. Un anno dopo rifaccio questo esame sulla colonna vertebrale, era completamente guarita, no, perché non era malata, ma aveva una postura che non aveva più bisogno di niente. Allora, parlando, ho detto, ma hai fatto qualche terapia, qualcosa? Fa, no, lo scorso anno stava molto male mio padre. Mio papà è venuto a mancare proprio in quel periodo. È passato un anno, ho trovato un fidanzato, ho trovato l'amore, ho cambiato lavoro, la sua postura è cambiata. Quindi molte volte lavorare sull'aspetto della nostra vita, sulle nostre emozioni, fa molto bene alla schiena più di tante terapie. È una bella storia, bellissima, eh? Eravamo tutti attesi. 800 24 00 24, se volete intervenire, se avete la sensazione che il vostro stato emotivo si traduca, abbia un cotè fisico. Ma intanto, professore Di Pietro, che caratteristiche hanno i dolori e le tensioni provocate dal nostro sentire emotivo? E si localizzano, si distribuiscono in tutto il corpo o hanno delle preferenze? Allora, dipende da persona a persona. Solitamente la prima cosa che noi notiamo, abbiamo, se vogliamo fare categorie, anche se la morte della medicina è sempre fare i protocolli e le categorie, perché la medicina è un'arte, non è una scienza. Allora, possiamo dire però che per alcuni si manifesta lavorando per il mio male sull'intestino, e quindi le brutte emozioni ce ne accorgiamo perché l'intestino. La maggior parte delle persone invece sul collo e sulla schiena, quindi sui muscoli che sono i trapezi, perché magari dove portiamo il peso della nostra dei nostri affanni, perché stringiamo troppo i denti. E allora Allora, 800 24 00 24, il dottor Confalonieri come medico sportivo ci aiuterà a vedere l'altro lato della medaglia. Tutti noi sappiamo che un singolo gesto o la ripetizione di gesti non corretti possono metterci KO e quindi provocare tensione, dolori localizzati o diffusi. Anche in questo caso il corpo incassa prima, si abitua e poi parla e si lamenta. Quali sono i segnali che dobbiamo cogliere e di che cosa ha bisogno, dottor Confalonieri, in un minuto per darci una mano, anzi in 20 secondi? Beh, innanzitutto dobbiamo sapere che il dolore acuto quasi sempre nasce laddove lo avvertiamo. Quindi il problema è lì e avvertiamo il dolore dove è successo l'accidente, diciamo così. Mentre il dolore che si manifesta cronicamente molto spesso ha origine lontana, quindi diventa molto più difficile la diagnosi, e tutto sommato lì è importante che i nostri ascoltatori ci aiutino segnalandoci dove è comparso il loro dolore, come è comparso e loro spontaneamente a cosa l'hanno messo in relazione. Vediamo se sono preparati. A tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Cuore e denari. Come stai? Ti distingui dal mondo. E voi come state? Dove siete localizzati? Vi chiamate il nostro numero verde, diteci che cosa state facendo, state guidando, siete sedute alla scrivania, state camminando, tutto bene? Oggi vogliamo parlare di tutti quei piccoli segnali che il corpo ci manda per avvertirci che infastidito, preoccupato, alterato, insoddisfatto, ma anche iperstimolato, affaticato, sovrautilizzato. Ci aiutano due esperti, il professor Ernesto Di Pietro, osteopata, professore di biomeccanica della colonna vertebrale all'Università di Lugano, e il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo. Allora, che cosa vogliamo fare? Vogliamo che utilizziate il nostro numero verde per lamentarvi, questo in realtà vogliamo. Perché? Perché oggi cerchiamo di leggere il dolore da due prospettive diverse. Il professor Di Pietro ci ha spiegato di quanto lo stato, gli stati emozionali, le nostre emozioni abbiano anche un cote fisico che genera contratture, tensioni, dolori. Ci affideremo invece al dottor Franco Confalonieri quando questi dolori in acuto o in cronico, lui ha detto localizzati, sono quelli acuti, indicano il momento, l'origine, la causa del problema. Quelli cronici molto probabilmente, molto spesso la causa è a monte, in alto o in basso. Originano in un'altra sede, determinano degli squilibri che portano il dolore in periferia. A volte sono proprio gesti, movimenti improvvisi o anche un allenamento non equilibrato, sbilanciato a e provocare. Guarda caso, non per andare dietro al professor Di Pietro, però quasi sempre la prima entità da guardare con attenzione è proprio la colonna, perché quasi tutto poi parte da lì. Professor Di Pietro, è d'accordo? D'accordissimo, assolutamente sì. Mi interesso proprio di biomeccanica della colonna, quindi diciamo io ho una visione abbastanza di parte. Tutto parte dalla colonna perché in fondo tutti i nervi, tutte le innervazioni hanno sede nella colonna vertebrale, cioè il nucleo della cellula nervosa è nella colonna vertebrale. Quindi molte volte una disfunzione della colonna può dare problemi anche molto lontano dalla colonna, che possa essere addirittura l'intestino, il fegato o altro, insomma. E a questo proposito, proprio brevissimamente, vorrei dare un consiglio a tutti, in particolare ai genitori rispetto ai loro bambini: reimparate a guardare i vostri bambini nudi, a guardare qual è la loro postura, a guardare com'è la loro colonna. Io ho sempre più casi di genitori che arrivano con lastre perfette, lastre che addirittura testimoniano guarigione, poi spoglio il bambino, lo faccio guardare al genitore e vedo situazioni disastrose. reimpariamoci a guardare la postura dei nostri bambini e a guardare molto semplicemente, molto direttamente, se sono dritti, se sono storti e come è fatta la loro colonna, com'è la loro postura. Facciamo un lavoro preventivo straordinario. Assolutamente, perché la lastra è un aspetto bidimensionale che vede solo le ossa. La postura non è legata alle ossa, è legata ai muscoli. Quindi vedere una colonna dritta o storta, vedere questi metameri che sono le parti che compongono la colonna vertebrale, le vertebre, non vuol dire assolutamente niente, perché le vertebre si muovono quando noi ci muoviamo, non è un'asta fissa, ma sono una serie di articolazioni mobili che ci permettono di muoverci. E quando viene fatta la radiografia, per esempio, basta mettere un piede un pochino più avanti, un piede un pochino più indietro, e i muscoli determinano una posizione della colonna non correttissima. Molto meglio invece vedere come stanno lavorando i muscoli e chiedersi perché. 800 24 00 24, professor Di Pietro, sì. Qual è il suo piano d'azione per oggi? Ci insegnerà a stimolare punti magici per sciogliere le nostre tensioni, per restituire benessere ai nostri muscoli e alle nostre articolazioni? Noi naturalmente ci affidiamo, ma vi diamo la direzione. Abbiamo capito, certo, che si parte dalla testa, testa fino all'alluce. Ci piace, Deborah? Possiamo... Scusa, okay. Il microfono spento. Sì. Perché eri rapita dal professor Di Pietro? Da no, questa rappresentazione della capacità preventiva che hanno i genitori, se osservano bene la colonna vertebrale dei bambini, la postura, non la colonna vertebrale, è stato un ragionamento molto interessante. Quindi questa differenza fra quello che ti restituisce la radiografia rispetto a quello che invece vedi tu. Allora, professor Di Pietro? Un esercizio che io ho preparato per oggi, sì, per gli ascoltatori io chiamo sempre essere benessere, ma in realtà è questa bellissima trasmissione che è cuori e denari, per intenderci. Esatto. E anche un po' di schiene. È un esercizio che in questo periodo va benissimo con il caldo che fa, il condizionatore e l'aria condizionata appunto, ma anche l'aria data dai ventilatori. Dove vanno a colpire? Vanno a colpire la cervicale. È un attimo, Sì. Sul coppino. Sul coppino proprio. E da lì su questi due muscoli grandi che abbiamo dietro, che sono i trapezi, contraiamo quelli, poi abbiamo in torsione, può arrivare anche il dolore lombare, come un punto per sbloccare tutto e farci stare meglio. Questo punto, vuoi che lo dica adesso? Certo. Ah, benissimo, se siete pronti ve lo dico adesso, se state guidando state attenzione. Allora siete contro il dolore dell'aria condizionata. Vediamo di riuscire a beccare un punto solo che ci sblocca. Se vogliamo sbloccare tutto quello che c'è dietro, dobbiamo cominciare davanti, o meglio, lavoriamo sui muscoli antagonisti del movimento del capo. Quindi voi adesso guardatevi allo specchio, se avete uno specchio, se no io guardo Deborah, fatevi un selfie col telefonino, ce lo mandate, spalancate la bocca il più possibile, ma proprio il più possibile, e osservate i muscoli del collo, guardate come viene teso il collo e guardate dove vanno a finire questi muscoli. Vi aiuto io, vanno a finire sulla clavicola, quell'osso che c'è lì davanti. Lo vedete? Benissimo. Cominciate a massaggiarvi un pochino la clavicola e andate verso la spalla, nel punto dove si incrociano la clavicola e la spalla, sotto la clavicola, in quel punto pigiate forte con un dito, con il polpastrello, uno dei due farà più male, o al limite anche tutti e due. Non abbiate paura, trattenete il fiato e spingete più che potete, sentirete un male cane per 3 secondi, rilassatevi e poi mi dite se il collo va meglio oppure no. Allora, mi raccomando, bocca aperta, non dovete guidare, bocca aperta, spalancate la bocca, andate a cercare la clavicola e quindi andate avanti fino a trovare l'incontro con la spalla. Lì sotto ci sono due punti, andate di pollice, premete prima uno poi l'altro, tutti e due insieme. Potete farlo anche tutti insieme per i coraggiosi, ecco. E poi chiamateci, vediamo se tutto è tornato come prima, ma abbiamo tantissime telefonate. Deborah, dove vuoi andare? Comincerei come al solito con una donna, che in questo caso è Patrizia, chiama da Perugia all'800 24 00 24. Ha fatto l'esercizio, Patrizia? Ha provato? Sì, guardi, ancora sono dolorante. Ha premuto troppo. Ci dica no, tutto. No, evidentemente è efficace. Allora, io ho chiamato per dare la mia testimonianza, perché sono rimasta affascinata da quanto ha detto il professore e posso confermare che molta influenza hanno le nostre emozioni, i nostri stress, tant'è che l'anno scorso, da marzo, ho avvertito dei grandi dolori alla spalla, sotto la clavicola peraltro, fortunatamente era la sinistra, altrimenti pensavo ad altre cose, anzi la destra, altrimenti pensavo ad altre cose, e da lì tutta una serie di accertamenti, perché questo dolore poi si spostava alla cervicale, e va bene, abbiamo fatto tutte le LAS, tutte le vari esami che ti... Sì? Consigliano sempre, e ho fatto terapia, ho fatto fisioterapia, ho fatto fino a che dopo 6 mesi un dolore acuto, tremendo, insopportabile, mi ha portato al pronto soccorso. Pronto soccorso non sono riusciti a fare poco più di niente, ho telefonato a un amico mio, un neurochirurgo, ha visto le analisi e ha detto: Patrizia, a 60 anni come abbiamo noi, tutti hanno l'ernietta cervicale che ti hanno diagnosticato, la protrusione non è quella, è un problema sicuramente diverso di natura psicologica, eccetera. Mi ha fatto prendere, vabbè, un mio rilassante. Premetto che nei mesi precedenti mi era aiutata anche con gli antidolorifici. E adesso, Patrizia, per dare anche spazio agli altri ascoltatori, venendo al dunque, che lui mi ha dato una massiccia dose d'urto di benzodiazepine, che praticamente è un rilassante. Sì. Nel giro di 24 ore io mi sono fatta una giornata di riposo. Da 8 mesi non ho più nulla. Un intervento di questo tipo, professor Di Pietro, che ha prodotto dei risultati a Patrizia, come lo commenterebbe? Facciamo finta di avere un computer che ormai è bloccato e tutto quanto, ha dato un colpo di reset. Ha dato un reset ed è andata bene. Vediamola così. Sicuramente il neurochirurgo che l'ha fatto sapeva bene quello che faceva, avrà visto tutto. È vero che se ci sono delle erniette, delle protusioni che più o meno possono avere tutti, diventa suggestivo. Io ho il dolore che arriva da lì, vedo un'ernietta, gli do la colpa. Non sempre è vero. Quell'ernietta probabilmente è stata sollecitata in modo anomalo, perché andrebbe indagato e visto bene. Certo. Ecco. E sicuramente fare un reset è stato utile per il paziente. Magari non sapremo mai qual è stata la causa che ha portato il dolore. Abbiamo fatto il reset, è andata bene. Andiamo ad Alberto, che ci chiama dalla provincia di Varese, e poi voglio sottoporvi il quesito di Daniela da Modena, che torna su il problema di una figlia 17enne. Ve la leggo tra poco. Alberto, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno, grazie, vi seguo volentieri, è una bellissima trasmissione. Io volevo solamente chiedere, un polpaccio strappato una decina di anni fa facendo podismo, eccolo, dopo tanti anni mi ritorna fuori. Allora, va bene fare gli allenamenti, che si sta meglio, è verissimo che è meglio che stare statici, però Alberto, bravo, perché lei mette alla prova il dottor Confalonieri, perché noi abbiamo detto bene e tante volte proprio facendo sport che ci facciamo male, ma oggi vi diremo quando e come lo sport può diventare terapeutico. Naturalmente lo usiamo come farmaco e come tutti i farmaci deve essere dato nelle giuste dosi, alle sue controindicazioni, ma dottor Confalonieri, per Alberto questo strappo al polpaccio che torna e ritorna a distanza di 10 anni, qual è l'indicazione? Beh, il caso è abbastanza interessante. Innanzitutto per come si è verificato lo strappo, nel senso che potrebbe essere stato un evento acuto come tale, o poteva esserci una predisposizione legata a un polpaccio particolarmente sensibile a questo tipo di problematiche, perché queste problematiche nascevano, come si diceva prima, a distanza. Guarito dal punto di vista acuto, adesso lui ha di nuovo il dolore quando corre. Qui vanno avanti due strade. Sì. Uno è che non si è guarito completamente, quindi si è rimasta una fragilità strutturale a livello del polpaccio, nel momento in cui lo sollecita torna fuori il dolore. L'altra strada, più suggestiva e probabilmente più probabile è che quasi sempre le problematiche al polpaccio, inizialmente il crampo, poi la contrattura, che può diventare addirittura uno strappo, nascono da uno squilibrio a livello della colonna lombare, che si riflette proprio a livello del polpaccio. Quindi a questo punto sarebbe utile che lui valutasse la situazione della colonna lombare, vedere se c'è questo squilibrio, che potrebbe anche essere stato anche all'origine del primo infortunio, se c'è, lavorare a livello di colonna, viceversa, se a livello di colonna è tutto perfetto, allora fare un'ecografia a livello del polpaccio per verificare se c'è stata o meno una guarigione. Ecco, un caso importante perché ci dà proprio l'idea, attenzione, ho un bivio, problema può essere a monte, può essere a valle, cominciamo a valutare la situazione a monte e poi eventualmente valutiamo quella a valle. Professor Di Pietro, lei che ha tutti questi punti magici, che sono un po' dolorosi da stimolare, ma poi funzionano. Per il problema di Alberto, quando uno avverte questo dolore, questo al polpaccio così forte, ha un rimedio? Così lo suggeriamo a quanti dei nostri ascoltatori sono runner e quindi si confrontano magari con questo tipo di problema? Allora, uno locale e uno un po' più lontano. Quello locale è deve essere ovviamente seduto, a riposo, la pianta del piede appoggiato, quindi col ginocchio piegato. I muscoli che ci sono dietro sono gemelli, sono due belli cosciottini gemelli. Trovare verso l'alto il punto di intersezione delle due parti alte e premere in quel punto compiendo una piccola rotazione, orario o antiorario, come non ci importa. Piace. Il primo punto. Il secondo punto invece è, qui dovete farvi aiutare, nella zona della colonna vertebrale, nella zona lombare, dove la colonna vertebrale finisce e comincia il bacino. Di fianco alla colonna vertebrale, dove ci sono i due buchini che si vedono quando uno sta bene dietro la colonna. Sì. Ecco, andate lì. Quelli che le ragazze mettono in evidenza. Sì. Perché voi guardate lì, si vede. Non è che io non l'ho mai visti dietro la mia schiena, chissà come mai. Ecco, in quella zona il solito polpastrello. Le due ditate, insomma. Sì. Allora, io voglio farle leggerle i ringraziamenti di Egidio, professore, perché ottimo esercizio, da 3 giorni, dolorante alla lato sinistro di collo e spalle a causa di guida per lavoro dentro e fuori dal furgone, sottolineo farmacie con l'aria condizionata a palla, ho fermato il furgone, provato, sentito subito una distensione dal collo al centro della schiena. Grazie Egidio. Ho avuto la mia solita fortuna, grazie a te. Egidio. Allora, il caso che vi volevo invece sottoporre è di un'ascoltatrice che ci dice che sua figlia, 17 anni, ha una gamba un po' più corta. Ce l'abbiamo tutti una gamba un pochino più corta dell'altra. Non sono d'accordo. No, lei non è d'accordo? Allora, no. Allora ce l'ha un po' più corta. Sì, prego. Nell'ultimo anno il problema si è accentuato e se sta molto in piedi lo avverte. Che tipo di visita specialistica mi suggerite per provare a risolvere il problema? Questa è una domanda dalle 100 pistole, dei 1000 punti, perché c'è chi suggerisce l'ortopedico, il medico sportivo, l'osteopata, il fisiatra, il fisioterapista. Naturalmente qua noi abbiamo un medico sportivo ed un osteopata. Allora, qual è rapidamente, perché i minuti stanno andando, il parere del dottor Confalonieri e naturalmente del professor Di Pietro? Il mio parere di parte è sicuramente che si debba partire da un medico sportivo che fa la valutazione globale, anche perché in questo caso non è vero che quasi tutti abbiamo una gamba più lunga dell'altra. Quasi tutti abbiamo una postura scorretta che ci porta ad avere uno slivellamento delle anche. E quindi questa impressione. E probabilmente è proprio il caso della nostra ascoltatrice, perché se avessimo anche una gamba più lunga dell'altra non è che questa cosa si accentua nel tempo. Non è che una cresce di più e l'altra di meno. Nel tempo si accentua questo squilibrio posturale. Quindi la prima cosa è andare valutazione dal globale. Medico sportivo, che valuta molto semplicemente, sono misurazioni da sarto, la lunghezza dei due arti, e quindi confermo meno se c'è questa dismetria, cioè se c'è questa differenza o no. Nel momento in cui c'è, allora bisogna lavorare per prevenire gli effetti collaterali ed eventualmente per correggere questa differenza di livello. Nella più parte dei casi non è così, e allora il buon medico sportivo lo passa il cliente all'osteopata che farà in modo di correggere questo difetto posturale. Ho sbagliato? Ma no, assolutamente. No, un libro stampato, la professore mia Di Pietro. Opinione è che è rarissimo, ma rarissimo, rarissimo, esatto. È una grave malattia avere una gamba più corta dell'altra che porta uno scompenso del genere. Non esiste quasi più, è una malformazione brutta. Mentre invece esiste uno scompenso del bacino con una rotazione che fa sì che una gamba comincia prima ad appoggiare e l'altra comincia dopo. Allora, questa coppia deve tornare perché faremo una puntata tutta con i punti magici del professor Di Pietro che ci sbloccherà. Tornate, promesso? Allora, siamo già qui. Prossima settimana. Grazie. Invece noi torniamo domani, promesso anche questo, che dici? Sì, a domani con Carmelo Lauricella. Sì, sì, ci sarà lui, con Isotta Scenna. Anche Marco Lombardo, siamo tutti presenti ancora. Le ferie sono ancora ben lontane, per cui buona giornata a tutti.